Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Siamo così arrivati anche alla terza parte di Eclettica per quanto riguarda la settimana in corso, che è la settimana numero 27. Vi ricordo che la settimana prossima esisterà sul calendario, ma non sarà la 28esima settimana di Eclettica. La 28esima settimana di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni sarà esattamente quella successiva, ovvero sia quella che inizierà lunedì 24 aprile. Già vi ho detto anche della novità, le pillole si riducono da 2 a 1 al giorno alle ore 10.55, in quanto il palinsesto verrà modificato con l'inserimento di pillole anche di altre trasmissioni. Vi ricordo anche del podcasting, a cui tanti si stanno affezionando anche da oltreoceano. Ho un bel mail dal Texas, penso che ve lo leggerò, mi è piaciuto molto e quando le cose mi piacciono è giusto anche condividerle. Per quanto riguarda i biglietti in palio, giulio@radiorockfm.com è il modo per vincerli. Questa settimana mi sono rimasti quelli di domani sera, il 14 di aprile, allo Zero Music Club di Azzano San Paolo, dei Picastro, il concerto. E poi, più in là nel tempo, Isobel Campbell suonerà il 24 al Rainbow di Milano e il 25 all'Hiroshima di Torino. La mattina che si uccise anche l'ultima figlia dei Lisbon, stavolta toccava a Mary, sonniferi come Therese. I due infermieri del pronto soccorso entrarono in casa sapendo con esattezza dove si trovavano il cassetto dei coltelli, il forno a gas e la trave del seminterrato a cui si poteva annodare una corda. Scesero dall'ambulanza con quella che come al solito ci sembrò una lentezza esasperante e il più grasso disse sottovoce: «Mica siamo in TV, gente, più presto di così non si può». Stava spingendo a fatica le apparecchiature per la rianimazione, accanto ai cespugli cresciuti a dismisura, sul prato incolto che 13 mesi prima, all'inizio di quella brutta storia, era perfettamente curato. Questo era l'incipit de Le Vergini Suicide di Jeffrey Eugenides. Loro si chiamano Feldman, come già vi dissi la settimana scorsa quando li trasmisi per la prima volta, sono italiani, sono siciliani per la precisione, incidono per la Stout Music e sono rispettivamente Massimo Ferrarotto nel suo curriculum Puerto Rico Eloma e Tazio Jacobacci nel suo curriculum Tellaro. Ci siamo ascoltati la traccia numero 4 dal titolo Golden Ring e sapete con cosa si è aperta Eclettica in questa sua terza parte, in compagnia di Giulio Capperdoni. Si è aperta con il brano che chiude il disco dei Mazarin, We Are Already There, esattamente proprio il brano che si intitola come l'album, dal quale per tantissimo tempo, e ho fatto veramente fatica a staccarmene, ci siamo ascoltati The New American Apathy, ma proprio nella settimana che vede il passaggio in Italia dei Mazarin ho deciso di farvi ascoltare quest'altra traccia che costituisce un'altra faccia, a me assai gradita, mi è piaciuto anche molto questo brano e quindi ho deciso di trasmettervelo, dei Mazarin. Ora ci spostiamo invece verso i Dea Sonica assieme a Jazz Coleman dei Killing Joke per questo brano anch'esso altrettanto interessante, molto particolare ma secondo me particolarmente riuscito. Si intitola Betrayal. Oh, forgive me. I'll forgive you too. La tua vita mia. And there's a note in my stomach that tells me I'm lying to myself. Involved in a land war in Asia, but only slightly less well known is this: never go in against a Sicilian when death is on the line. Savior, I've been called, and it's justified, it's true. meadows told of travels, tales of grace, from tears of joy and smiles on every waiting face, illustrious stories to the end. The people gathered round our effervescent friend, as heaven's gate swung to let him in. He uncrossed his fingers and allowed himself a grin. Please, sir, if you let me in, I'll prove, sir, chi si è divertito a definirli come gli Arcade Fire scozzesi, ma queste definizioni sinceramente a me lasciano sempre così un po' dubbioso. Loro si chiamano My Latest Novel, sono un quintetto, sono effettivamente scozzesi, su questo non ci piove. The Reputation of Ross Francis è il titolo del brano che vi siete ascoltati quasi in chiusura della terza parte di Eclettica di questa settimana in compagnia di Giulio Caperdoni. Vi ricordo che la prossima settimana, quella di Pasqua, Eclettica non sarà in onda, ma riprenderà esattamente la settimana successiva. Per noi è come se la settimana nel mezzo non ci fosse. Questa è la 27esima. La settimana in cui riprenderemo per noi sarà la 28esima. Ora ritorniamo sui Feel Garvey, band inglese che già ci eravamo ascoltati, non ricordo se una o due settimane fa, scusatemi per questa imprecisione. Cult Laughing, il titolo dell'album che esce per Ghost Records assieme ad Audioglobe. Proprio in questi giorni avrebbero dovuto iniziare anche un tour qua in Italia, ma motivi non meglio precisati gliel'hanno fatto cancellare completamente. Noi ci ascoltiamo la traccia numero 3 dal loro ultimo disco, The Palace Lights, il titolo del brano. I don't know why she should sing, so you lift her off the sea again. Took 10 men to drag her up the beach. She cried and railed against the meat. Looks like she could use a day to find the best way to go. Thank you. Never Learn to Cry, questo è un trio che proviene da Brooklyn, sono le Rogers Sisters, in effetti ci sono due sorelle, però c'è un terzo componente che non è ovviamente sorella ma non è neanche Rogers. Never Learn to Cry è il disco che ci siamo ascoltati, novità Too Pure per quanto riguarda questa terza parte di Eclettica, che si chiude rimanendo negli Stati Uniti, un duo che pensate si è formato nel 1990 nelle stanze della Colorado State University. Loro sono rispettivamente Chris Hydman e Steve Cruz, ma si fanno conoscere con il nome di Zach Patch. Nel loro curriculum vitae anche la sfortunata firma di un contratto con Grand Royal prima che l'etichetta andasse con le gambe all'aria. Chiudono questa terza parte di Eclettica con un estratto dal loro ultimissimo per Moshi Moshi Records, album dal titolo 23. Il brano è Medium Self-Employed. Draw up the plans to your success. dear Prudence. I'd have never thought it out myself, but the second the rage just acts out, it was so loud. But your second parade just acts out, you're so loud. All the pop marks, hiccups, and last words too. Oh, the aggravation of all of your you. A shame of how collective you'll take a fall in the middle of the night. Music in the hall, lights call, played soft, now useless. She will come collect you, you'll take a fall. In the middle of the night, you catch your music in the hall, lights call, played soft, now Eclettica, fine della terza parte.